Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento è confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. E questa era La Caccia. Come sempre adesso invece andremo a replicare la Ten Ten Chart condotta da Vito War e DJ Gianco, i 10 migliori brani selezionati dalla redazione musicale di Radio Popolare. Non preoccupatevi, finita la Ten Ten Chart, le trasmissioni di Radio Pop continuano con la musica diffusa dalla macchina della notte. Questa comunque è la Ten Ten Chart. Ci siamo, io mi sento altissima. Sabato pomeriggio 2:30, come ogni sabato, appuntamento imperdibile con la classifica, la Ten Ten Chart, la classifica ufficiosa di Radio Pop. 107.6 le frequenze. Vito War, DJ Anco, per regalarvi 10 successi, 10 canzoni bellissime. Successi. Speriamo che siano tutti successi. No, è vero, 10 canzoni varie, tutti numero uno, lo diciamo sempre molto spesso, però per convenzione scegliamo dalla 1 alla 10. Ci sono delle nuove entrate. Io direi scegliamo dalla 10 alla 1. Dalla 10 alla 1, sì, perché partiamo con la numero 10. Questa settimana abbiamo riservato per voi qualche nuova entrata. Le posizioni, possiamo anticipare che le posizioni alte rimangono, rimangono in vetta, perché sono quotatissime, sono anche votate da voi. Ringraziamo tutta la crew dello staff dei programmi musicali di Radio Pop che ci fornisce queste 10 canzoni e ci dà segnalazione delle nuove uscite. Big respect soprattutto a Pachanka, che diciamo che è il serbatoio da dove più o meno escono fuori tutti i brani della Ten Ten Charts. E però lo ricordiamo, voi potete segnalarci o comunque votare quelle che vi paiono più interessanti e che non volete che escano dalla classifica, e per fare ciò potete chiamare qua in diretta dalle 2:30 alle 3:30 allo 02 39 27 31 09 oppure scrivere un'email. L'email si manda al posta elettronica tenten@vitowar.com. Ringrazio tutti quanti gli ascoltatori che hanno scritto questa settimana. C'è una superstar del momento, dobbiamo veramente dirlo, che riceve un sacco di voti, però picchia le cornecchie contro la numero uno, che è ancorata ancora di brutto. La numero uno, molto prevedibile, essendo questa classifica proprio faziosa di faziosa, brutto. Faziosa, perché è della radio, quindi chiaramente ci piace mettere ai primi posti le nostre produzioni. Comunque partiamo dalla numero 10. Partiamo alla grande, quindi una canzone che fa ballare. E la colonna sonora di un film, non è la prima volta che la incontriamo, è SSS, come dice il grande Vito, su The Side Story. Posso far chiudere un locale come quello che farò fare io. Ecco, non dica farò, i fiori. Io chiudere il locale? Salve.